America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano, Mario Platero. Beh, sono di passaggio qualche giorno in Italia dopo essere stato a seguito del Presidente Obama. Questa mattina ho partecipato alla trasmissione 9 in punto, abbiamo affrontato brevemente la questione gay, voglio dire la sentenza della Corte Suprema americana che ieri ha stralciato una legge, la DOMA, che impediva alle coppie gay sposate di godere degli stessi diritti che hanno in termini di benefici legislativi federali le coppie sposate di sesso diverso. Ecco, è una legge molto importante perché apre la strada o comunque esercita pressioni su quegli stati americani, vi ricordo sono 12 gli stati in America che consentono, autorizzano il matrimonio gay, gli altri no, e dunque questa legge esercita delle pressioni perché altri stati autorizzino il matrimonio gay. Non solo, sempre ieri la Corte Suprema americana ha rifiutato di intervenire sulla Proposition 8 che era stata approvata in un referendum popolare in California nel 2008 che abrogava il diritto al matrimonio per gli stessi sessi in tutto lo Stato California, che tra l'altro è considerato da sempre uno dei più progressisti degli Stati Uniti. Dunque una giornata storica, lo ha detto Bill Clinton con Hillary Clinton, lo ha detto il presidente Obama, ha fatto un Twitter, ha detto love is love, un giorno importante per l'avanzamento dei diritti civili, per l'uguaglianza fra coppie eterosessuali e coppie omosessuali. Beh, l'argomento insomma è molto forte, per cui ci saranno opinioni divergenti, vi invito a scrivermi su Twitter, @ Mario Platero, così facciamo un altro esperimento di social radio. Ecco, ho deciso invece di continuare a darvi dettagli sull'aspetto giuridico di parlare con una persona, Andrew Solomon, uno scrittore, tra l'altro ha scritto un libro che è appena uscito, Not Far From the Tree, lui è omosessuale, è sposato e ha un figlio e ha scritto un libro su certe dinamiche familiari, ha vinto un premio Pulitzer, è un autorevolissimo scrittore americano. It's been remarkable to see how the social situation is transformed. When I was growing up, I think I thought that it was tragic to be gay, and the fact that I was gay was a source of enormous sorrow to me. È impressionante notare quanto la società sia cambiata nel tempo. E quando ero ragazzo pensavo che essere gay fosse una vera tragedia. Il fatto che io lo fossi mi provocava un immenso dolore. Il dolore era causato soprattutto dal fatto che mi sembrava impossibile che io avrei potuto avere un amore duraturo e soprattutto dei figli. Io ho sofferto di una terribile depressione, una lunghissima agonia. Poi a quel punto il mondo intorno a me è cambiato, ho incontrato John 10 anni fa, ci siamo innamorati, siamo andati a vivere insieme e ho espresso il mio desiderio di avere un bambino tutto nostro. Così abbiamo trovato attraverso un'agenzia una donatrice di ovulo e dopo aver trascorso l'inizio della mia carriera scrivendo di depressione, disperazione, infelicità, della vita che i gay conducono ancora oggi in Italia o che io ho vissuto qui negli Stati Uniti, ho finalmente trovato in questa nuova vita familiare una tale gioia che l'idea che questo possa essere considerato un male o sbagliato è terribile ed è davvero incomprensibile per me. America 24. Bene, abbiamo sentito Andrew Solomon. Adesso con me ai microfoni di America 24 il professor Francesco D'Agostino, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Roma di Tor Vergata e collaboratore dell'Avvenire. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Allora, professore, intanto vedo, lei ha sentito, Andrew Solomon è un uomo felice. E leggo invece sull'Avvenire, nuova apertura alle nozze gay, i vescovi, un giorno tragico. Può anche darsi che il termine tragico sia emotivamente eccessivo. Comunque è per diverse ragioni che alcuni lo ritengono tragico e altri felice. Io ritengo che questa decisione americana crea questo problema. La legge, attraverso la Corte Suprema, altera una struttura antropologica fondamentale, qual è il matrimonio e qual è la famiglia, che precede le dinamiche politiche e deve essere rispettata dalle dinamiche politiche, perché appartiene all'essenza relazionale dell'umanità il carattere eterosessuale del matrimonio, da cui derivano tutti i vincoli familiari. Siamo testimoni di un grande esperimento di alterare una struttura antropologica plurimillenaria. Ecco, diciamo, le coppie gay, soprattutto in America, io lo vedo ogni giorno, sono avvocati, sono professionisti, sono architetti, sono persone che hanno una vita molto stabile e che crescono delle famiglie. Domanda, ci arriveremo anche in Italia, secondo lei, sarà un bene o sarà un male? È molto probabile che ci arriveremo, ma attenzione, ci arriveremo partendo da un grande equivoco, dall'equivoco che le coppie gay siano discriminate, quando invece non è questione di discriminazione, perché discriminazione è trattare chi è uguale in modo diseguale, ma le coppie gay non sono antropologicamente uguali alle coppie eterosessuali. In questo senso è giusto distinguere le coppie eterosessuali, che sono coppie generative, naturalmente generative, dalle coppie gay, che sono coppie rispettabilissime, ma naturalmente non generative, se non nelle forme artificiali della procreazione medicalmente assistita, che si trasforma molte volte in una commercializzazione del corpo delle donne che viene sottoposto a queste pratiche. Beh sì, poi diciamo però queste persone poi hanno dei figli, questo succede più normalmente forse all'estero che da noi, però lei in sostanza dissente da giurista con il giudice della Corte Suprema Anthony Kennedy, che ha scritto il parere che poi diciamo è stato votato dalla maggioranza, e che dice: questa legge che prima impediva il matrimonio o impediva certi vantaggi del matrimonio scrive disuguaglianza nell'intero codice negli Stati Uniti. Si sono creati standard diversi per coppie che sono legalmente sposate ma sottoposte in un caso a un trattamento inferiore. Il giudice ha ragione da questo punto di vista, che il vizio sta nel manico, sta nel fatto che 12 stati degli Stati Uniti hanno accettato il matrimonio gay, ed è lì che nasce l'alterazione e la diseguaglianza. Ma sicuramente, riflettiamo su questo punto, non è la sofferenza di queste coppie che deve creare problema per il diritto, perché il diritto non gestisce felicità o sofferenze, il diritto deve gestire strutture sociali che hanno rilievo sociale. Ma se questa cosa poi alla fine, come lei stesso prima diceva, non dovrebbe creare grossi spostamenti nelle percentuali, magari capiterà anche da noi, eccetera, eccetera, cioè se non crea davvero dei problemi, perché non farla? Perché il problema non è statistico, cioè noi non possiamo decidere di fare delle leggi o di non farle in base al numero delle persone, grandi o piccole, che sono coinvolte, ma in base alla rilevanza sociale obiettiva che hanno certe decisioni normative. E da questo punto di vista io posso essere molto infelice se non ho il brevetto per guidare un aeroplano, ma se sono miope è giusto che non mi venga dato questo brevetto, per ragioni sociali obiettive e non perché io mi sento discriminato rispetto ai piloti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee sull'America che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scrivetemi su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi restiamo in tema: coppie omosessuali, diritti civili, passi in avanti. Il professor D'Agostino ha chiuso dicendo che insomma, non sarebbe molto opportuno dare a un pilota miope il brevetto per volare. Bisogna vedere se il pilota è davvero miope, perché è qui che intervengono giudizi soggettivi. Visto che sui giudizi soggettivi possono esserci delle differenze, cerchiamo di unificarci con qualche cosa, con una canzone che piacerà, deve, può piacere a qualunque coppia di qualunque genere nel momento in cui si unisce in matrimonio. Il pilota, Frank Sinatra, la canzone Fly Me to the Moon. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24